Bene, siamo in collegamento con Gabriella Grayson per parlare con lei del suo spettacolo 1927, monologo quantistico che sarà in scena al Teatro Brancaccino dal 18 al 21 di gennaio. Intanto, Gabriella, ben trovata. Grazie, grazie dell'invito. Allora, raccontiamo un po' la storia, di cosa si parla in questo monologo. Dunque, io ho ricostruito la storia che ruota intorno a una fotografia, una famosa foto in bianco e nero. Ci sono 29 uomini in posa, 17 erano, sarebbero diventati dei premi Nobel. È la foto più famosa della storia della scienza. È stato il più grande ritrovo di cervelli che la storia ricordi. Si vede Einstein, Marie Curie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Pauli, ci sono tutti. E sono andati tutti a Bruxelles sul finire d'ottobre del 1927 e sono rimasti insieme una settimana. In questa settimana hanno discusso, hanno parlato, hanno litigato tantissimo e poi hanno creato la fisica quantistica. E quindi quello che racconto io sono una fisica di formazione, sono una scrittrice e racconto le vicende che hanno portato a nascere della fisica quantistica. E ho fatto delle ricerche a Bruxelles, a Parigi, per 2 anni sono andata avanti e indietro tra archivi, traduzioni di lettere, eccetera, e alla fine ho ricostruito questa vicenda sia all'interno del romanzo L'incredibile cena dei fisici quantistici, che è stato un vero best-seller, ha venduto tantissimo, si è arrivati alla sesta ristampa. E poi in questo monologo teatrale, 1927, monologo quantistico, regia di Emilio Russo, andrò in scena al Teatro Brancaccino di Roma da giovedì 18 a domenica 21. Gli spettacoli sono sempre alle ore 20, tranne domenica che, sono alle 18, che è alle 18.45. Io poi dopo lo spettacolo aspetto chi vuole parlare con me, chi vuole le dediche sul libro dell'incredibile cena oppure per le chiacchiere sulla fisica quantistica, aspetto tutti nel foyer. E insomma, ho debuttato 2 anni fa alla Sala Umberto, era una sala pienissima, è stato un successo pazzesco e quindi mi piace l'idea di tornare a Roma in questo tour che sto facendo in giro per l'Italia, nel luogo dove mi ha portato molta fortuna. Senti Gabriella, la spinta a passare nel passaggio dalla pagina scritta alla messa in scena? Sì, è stato un lavoro lungo, ho lavorato sia con il regista sia con me stessa sulla recitazione, sulla parlata, e quindi ho trovato un modo tutto mio per raccontare queste storie. E siccome io sono una fisica, non è che sono una divulgatrice scientifica, ma divento reale all'improvviso, dico la verità, e per questo la gente mi fa sentire tutto questi applausi, perché insomma sentono che racconto esattamente le cose come stanno, non ho memorizzato niente, no, no, ma racconto la verità. E la verità in questa storia, che ha una drammaturgia bellissima, insomma, il lavoro con Emilio Russo è stato molto divertente, e poi ha insomma un corredo di foto, di musica, è una bella storia, poi è divertente, si ride tantissimo, perché Einstein fa ridere, perché ci sono dei personaggi come Heisenberg, come Schrödinger che fanno ridere e hanno delle vite incredibili. Noi sappiamo tutto di Keith Richards o di Kurt Cobain, perché nessuno ci ha mai raccontato di questi grandi è per quello che lo sto facendo e insomma mi danno tanta soddisfazione. È un fiorire di spettacoli, che riguardano il rapporto con la scienza. Com'è questo rapporto tra teatro e scienza? Siamo agevolati noi fisici perché, lo diceva anche Einstein, i fisici hanno un mondo dentro, quindi sono bravi a raccontarlo in maniera teatrale. E anche Niels Bohr, il grande nemico di Einstein con cui lui litigava sempre, soprattutto a Bruxelles nel 27, lui aveva creato nella sua scuola di Copenaghen addirittura un teatro per i fisici dove loro potevano mettere in scena le loro ansie, le loro paure, le loro riflessioni sulla scienza che stavano studiando, e poi finivano sempre tutti per litigare, vabbè, però sono teatrali, insomma, i fisici. E l'idea anche di ricordare questa cosa che ho creato a marzo, il primo festival teatrale interamente dedicato alla fisica, dal 20 al 28 marzo al Teatro Menotti di Milano, e il programma è sul mio sito www.graysonanatomy.com, Grayson è il mio cognome, e ho lanciato un crowdfunding sulla piattaforma produzionedalbasso.com in cui sostenerlo. È fondamentale, insomma, per riuscire a fare delle belle rappresentazioni teatrali, degli spettacoli, degli show. La cosa particolare è che non esiste da nessuna altra parte al mondo che tutti questi spazi hanno sempre un fisico, uno scienziato sul palco. Quindi il Festival della Fisica, Viva la Fisica, al Teatro Menotti di Milano dal 20 al 28 marzo. Io vi aspetto lì a Milano. Invece da stasera, giovedì 18 gennaio fino a domenica al Brancaccino con 1927 monologo quantistico. Sul mio sito comunque ci sono tutte le informazioni, www.gredonanatomy.com. Gabriella, in chiusura, come entra la fisica e la quantistica nel quotidiano del pubblico? Beh, accidenti, quando ce l'abbiamo nelle mani tutti i giorni, quando usiamo i telefonini, oppure quando usiamo il lettore CD, DVD, oppure quando si va a fare una TAC. La fisica quantistica è nella nostra vita di tutti i giorni. Abbiamo una grande possibilità di scelta per elencare tutte le cose che noi utilizziamo grazie alla fisica quantistica. È solo che fa paura, molte volte viene raccontata male, o ci sono dei luoghi comuni, oppure vengono presi in mano questi argomenti dai santoni, dai veggenti, dai cartomanti, e non si capisce com'è che ci ricamano sopra delle storie fasulle. Quando invece il racconto viene da un fisico, da uno scienziato, allora sì, bisogna crederci. Però, insomma, come diceva anche Niels Bohr, se uno pensa di aver capito la fisica quantistica, allora non ha capito niente. E, insomma, io della fisica quantistica mi faccio abbracciare, mi faccio accarezzare, però sono tante le domande che mi lascia aperte, questo è il motivo per cui mi incuriosisce. Bene. Allora Gabriella, un ringraziamento, in bocca al lupo, ricordiamo l'appuntamento al Teatro Brancaccino. Bene, grazie. Ci si vede a teatro, ciao Gabriella.